pure le paure ed il rischio di rifare un nuovo errore. Prendi tempo, da domani la fortuna girerà. Al posto tuo ci sarò. Moltiplicarti il sole, ma devi urlare, devi uscire, devi stringere, allentare. Se oggi nutri questo tempo, da domani la fortuna girerà. Al posto tuo ci sarò. Yeah.